100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Mercati molto nervosi la settimana scorsa per un accavallarsi di notizie politiche ed economiche di carattere internazionale. Intanto si avvicina sempre di più il referendum in Gran Bretagna per valutare da parte dei cittadini del Regno Unito l'uscita dall'Unione Europea, e anche questo ha rinfrescato alcune preoccupazioni per la Banca Centrale Europea, che ha chiesto alle grosse banche della zona euro, la BCE ne supervisiona circa 129, di spiegare nel dettaglio come si stiano preparando alla possibile uscita della Gran Bretagna e come gestirebbero lo shock che potrebbe verificarsi sui mercati con una repentina svalutazione della sterlina. Gli operatori inoltre hanno ripreso a valutare con vigore la situazione dei paesi emergenti, sia il Sud America per l'impeachment del presidente brasiliano Dilma Rousseff, sia per la bocciatura da parte del Parlamento europeo della concessione alla Cina dello status di economia di mercato. Continua ad essere un grande osservato speciale il mercato obbligazionario. È stato calcolato che quasi un terzo delle obbligazioni governative nel mondo viaggia in negativo. In Europa oltre il 60% delle obbligazioni tedesche ed oltre il 40% delle obbligazioni francesi hanno il segno meno. L'Italia pure continua a testare nuovi minimi storici. Settimana scorsa è toccato al bot annuale, il tesoro ha collocato 6,5 miliardi, il tasso è scivolato in negativo dello 0,14%. Per quello che riguarda i temi di Piazza Affari, resta altissima la vulnerabilità delle banche. In settimana il mercato ha di nuovo venduto a piene mani i titoli del Banco Popolare dopo la trimestrale. Tra l'altro proprio oggi si tiene la presentazione del piano industriale del progetto di fusione fra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. A Piazza Affari non sono neanche piaciuti i conti di Generali, è andata invece molto meglio alle società fashion, accoglienza molto positiva per i conti di Salvatore Ferragamo e Yux Net-a-Porter. I temi da tenere sotto osservazione infine questa settimana: le banche centrali pubblicano i verbali delle loro ultime riunioni e arrivano l'inflazione e la produzione industriale statunitense. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Un nuovo elemento comincia ad inserirsi nella faida internazionale, se vogliamo chiamarla così, sui tassi negativi. Già in passato in Danimarca era successo, in particolare un mese fa, che una banca rispedisse a un proprio cliente che aveva contratto mutuo un assegno per rimborsargli la differenza di tasso fra quanto era stato stabilito al momento del contratto e il livello dell'Euribor, cioè negativo. Adesso sta succedendo anche in Francia e in particolare in Portogallo. Gruppi e associazioni di consumatori hanno infatti proposto mosse formali sia con la banca centrale sia con le autorità giudiziarie per costringere le banche a restituire i soldi dei tassi di interesse caduti negativi su quei mutui a tasso fisso e variabile che, punto, dovrebbero ridare a chi ha contratti dei soldi indietro. È un po' la morale di questo periodo strano, di questo periodo di tassi negativi, di banche che soffrono sui margini di profitto e, guarda caso, di risparmiatori che invece potrebbero addirittura beneficiarne. Ma non soltanto i risparmiatori, ma anche i mutuatari. Come finirà? Per ora è difficile dirlo, anche perché l'Euribor a 8 e 12 mesi, che sono appunto i due indicatori di riferimento per il mercato dei mutui, non sempre e in tutti i paesi sono andati al di sotto del tasso negativo. In Spagna e in Portogallo è accaduto già due volte, in Danimarca anche. In Italia sta oscillando intorno allo zero, ma se per caso andassero negativi anche in Italia, tornerebbero a casa dei mutui? Beh, per questo bisognerà sentire la Banca d'Italia e soprattutto le banche stesse, che un po' in gran fretta e in termini generali stanno cambiando proprio i contratti di mutui per inserire delle clausole che non prevedono la restituzione dei tassi negativi. La battaglia è appena cominciata, più a lungo dureranno i tassi a zero, più vedremo controversie su chi paga e chi riceve. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.